Sì, il concetto di Internet of Things è un concetto molto importante al giorno d'oggi e diciamo, si intende la connessione che gli oggetti di uso comune hanno con la rete e rappresenta certamente una delle evoluzioni tecnologiche che sta cambiando e cambierà sempre di più il nostro stile di vita, quindi lo stile di vita dei cittadini e quindi poi collegato anche quello delle imprese e delle istituzioni, soprattutto a livello di smart cities. Cosa intendiamo noi per Internet of Things? Cioè quali sono i vantaggi? I vantaggi che gli oggetti si definiscono smart, quindi dotati di una intelligenza propria e quindi possono interagire tra di loro e con l'ambiente circostante, possono raccogliere ed elaborare informazioni utili e poi possono essere controllati a distanza. Se noi pensiamo appunto che l'Internet of Things diciamo, ha un proprio ruolo molto importante nell'ambito delle smart cities, possiamo avere dei vantaggi sia a livello di ottimizzazione dell'efficienza energetica, a livello di mobilità, a livello di comunicazione, a livello turistico, ovvero per rendere l'esperienza diciamo, turistica molto più importante, coinvolgente e soprattutto anche a livello di infrastrutture. Ad esempio, Picat ha realizzato un'app per il comune di Bologna chiamata Bologna Agenda Cultura, che è un'app che riguarda gli eventi e le manifestazioni culturali che si svolgono nella città, dalle mostre dipendenti fino agli eventi di rilievo internazionale come Bologna Art Cities, vengono tutte pubblicizzate attraverso questo canale di informazione. Quindi l'app riporta tutte le informazioni presenti sul portale agenda.comune.bologna.it e incorpora un sistema di geolocalizzazione dinamico di integrazione con i principali social network, ad esempio Facebook e Twitter, tutto chiaramente nel massimo rispetto della privacy degli utenti. Poi collegati ai concetti di Internet of Things e di Smart Cities c'è anche il concetto correlato, diciamo, come tecnologia innovativa di realtà aumentata. La realtà aumentata è una tecnologia che permette di aggiungere dei contenuti digitali, come ad esempio video, 3D interattivi, informazioni diciamo testuali a contenuti reali con l'utilizzo di dispositivi mobile come ad esempio uno smartphone o un tablet. E Picat è l'unica società in Italia e una delle 12 al mondo a possedere una piattaforma di sviluppo, un ecosistema di tecnologie proprietarie, quindi per sviluppare poi una serie di app tese a soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Quindi, facendo un esempio, con la realtà aumentata basta puntare la fotocamera del proprio telefonino, del proprio tablet su un oggetto, un'immagine o un luogo fisico per aggiungere degli elementi digitali che sono contestualizzati a ciò che l'utente sta osservando. Quindi il punto di partenza può essere appunto un oggetto fisico, un'immagine, oppure anche puntando il tablet nell'ambiente reale attraverso la tecnologia della geolocalizzazione possiamo fruire di contenuti in realtà aumentata. Un secondo esempio, sempre collegato all'Internet of Things, è il marketing di prossimità. Il marketing di prossimità è che diciamo, noi utilizziamo tramite i beacon, che sono piccoli hardware, piccoli cioè, dispositivi hardware che attraverso la tecnologia del Bluetooth Low Energy offrono una connettività wireless a bassa potenza e permettono di trasmettere delle informazioni e dei contenuti mirati ad un'app mobile presente sui dispositivi degli utenti che la stanno utilizzando. A cosa possono servire questi beacon? Diciamo, per lato utente servono per personalizzare la propria esperienza, quindi noi pensiamo ad esempio durante la visita ad un museo piuttosto che entrando in un negozio di abbigliamento, mi permettono di ricevere sul dispositivo dell'utente delle notifiche che sono personalizzate, quindi non si tratta di spam, sulla base dei loro interessi e delle loro diciamo, esigenze, quindi con degli ulteriori contenuti, ad esempio magari un sistema di couponing piuttosto che dei video, dei test, delle promozioni dedicate, delle informazioni personalizzate e quant'altro. Mentre dal lato invece di chi utilizza questa tecnologia, l'utilizzo è sicuramente utile per profilare gli utenti, per tracciarne il flusso, per tracciarne diciamo, tutte le variazioni, quindi quante volte è stato visualizzato quell'elemento, quante volte è stata aperta la notifica, in quanto qual è il tempo di interazione con l'elemento, eccetera. Quindi sono tutta una serie di dati che poi possono essere utili in fase di iniziative, campagne di marketing profilato. Quindi sicuramente sono dei dispositivi che sono molto convenienti perché sono a basso costo, sono facilmente installabili, hanno raggio di azione anche mediamente ampio, creano interazione e coinvolgimento da parte dell'utente, raccolgono delle statistiche molto importanti e in più offrono un'esperienza assolutamente nuova ed innovativa, diciamo, nel panorama italiano e anche internazionale.